Runtime Radio, la talk radio geek, vi dà il benvenuto. Buongiorno. Che vuol dire che il Covid è nottambulo? La nostra mafia che ormai non ha più quella sensibilità. E guai a chi mi vuole impedire di utilizzare la parola ricchione. Posso mentre parlo con una signora abbassarmi la mascherina? No? E se non sta un metro e mezzo no. Dell'autoritarismo da regime sanitario e mediatico smacchiato con rosso sangue dei nostri diritti naturali e costituzionali. Che cos'è il mandato zero? È un mandato, il primo, che non si conta nella regola dei due mandati. Non ce n'è Covid, non c'è niente. Andata la fascia, pezzo di merda, pezzo di merda, ma te sputo che fai? Buongiorno. Buongiorno un cazzo. Runtime Radio. Ne fa un'altra. Buongiorno a tutti e buongiorno un cazzo a tutta Runtime Radio e a tutti coloro che sono qui ovviamente ad ascoltarci. Sono 4 minuti dopo le 7 con un lievissimo ritardo, ovviamente entriamo in diretta come facciamo praticamente tutte quante le mattine da una settimana a questa parte, a parte qualche defezione che è normale perché ci vuole un po' di tempo di assestamento, ci vuole quel entrare in una logica che è completamente diversa e cercare di fare sempre quel piccolo sforzo in più per dare un servizio, ma soprattutto per divertirci a fare la radio. Ciao a DJ Hooker, che già vedo presente nella chat, probabilmente l'unico a quest'ora di mattina, ma come biasimarlo, come biasimarlo, come biasimare tutti gli altri anche, perché insomma è una cosa alla quale probabilmente anche gli ascoltatori di Runtime Radio dovranno fare un po' l'abitudine, e questo è legittimo, insomma ci sta, anche perché comunque svegliarsi alle 7 per ascoltare la radio è una cosa, e invece essere svegli e decidere di ascoltare questa radio piuttosto che le radio tradizionali è ovviamente tutto un altro discorso. È interessante il fatto che noi comunque proporremo diverse soluzioni, perché stiamo cominciando a fare anche una serie di sondaggi relativi a quelli che sono le fasce orarie nelle quali uno potrebbe potenzialmente decidere di ascoltare Runtime Radio e regolarsi anche un po' di conseguenza per vedere di offrire magari delle soluzioni. Ad esempio abbiamo fatto un sondaggio durante questa settimana fatto da Walter Sbano, che tra l'altro saluto e applaudo insomma al primo episodio di OGM della nuova stagione, credo sia la quarta stagione addirittura, che è iniziato insomma nel migliore dei modi, è stata una puntata molto frizzante e molto divertente. Comunque tornando al sondaggio, per esempio Walter ha chiesto al pubblico in generale se una live dalle 8 alle 8:30 di sera potrebbe essere una cosa gradita, se uno non l'ascolterebbe assolutamente o se potrebbe ascoltarla o se sicuramente l'ascolterebbe. Devo dire che il sondaggio non è stato così un'accetta, diciamo così, come avremmo potuto aspettarci, ma insomma abbiamo avuto anche dei riscontri positivi. È chiaro che le 8:30 sono un orario un po' particolare, perché già si è in prossimità della cena, si è già con la propria famiglia, e quindi può essere una cosa un po' particolare. Però se una radio vuole crescere anche dal punto di vista promozionale, da un certo punto di vista, e quindi farà crescere anche quelle che sono poi le sue risorse progettuali, è chiaro che deve fare un piccolo sforzo da questo punto di vista, e vediamo quello che succederà durante l'arco di quest'anno a Runtime Radio, e di conseguenza a noi tutti, cercando di capire insomma dove vogliamo andare, per dove vogliamo andare. Il primo argomento che... Allora, abbiamo un argomento in questa puntata, però prima di sviscerare l'argomento, ci sono tre cose sulle quali volevo porre un attimo l'attenzione, perché praticamente una in particolare mi ha colpito molto, perché lo sto leggendo durante questi giorni, è una cosa che sta riuscendo fuori, diciamo, in qualche maniera. È tornato di moda come tipo di argomento e ci fa anche un po' riflettere, non tanto sull'argomento in sé, che poi ognuno può avere le proprie idee, ma quanto poi in questo paese, ma in generale penso nella società moderna, il concetto di democrazia sia oramai diventato un orpello da mettere lì, cioè siamo in democrazia, sì votate, sì va bene, perché poi è un po' questo il discorso che ne esce fuori, e l'argomento è quello del nucleare. Questo è un paese, l'Italia, che ha espresso ben due volte, indipendentemente, ripeto, da quello che ne pensiate o no, o se siate d'accordo o meno, questo è un paese che ha espresso ben due volte la propria opinione sull'avere una produzione di energia nucleare all'interno del nostro territorio o meno. Molti mi hanno fatto l'appunto durante i tanti anni dicendo: sì, ma se tu c'hai una centrale nucleare a 5 km dal confine è la stessa cosa. Sì, / no, perché è chiaro che per quanto le centrali nucleari che erano state costruite in Italia erano all'avanguardia, per quanto la nostra tecnologia quando viene messa in campo è comunque all'altezza, se non in alcuni casi anche superiore a quella di tanti altri paesi, esistono delle problematiche superiori, cioè diciamo che esiste tutto quello che è poi la cultura, il concetto di regole, di gestione delle regole, di responsabilità da parte anche della politica, che spesso e volentieri insomma ha dimostrato di non essere all'altezza di gestire cose di grandissimo livello. E il nucleare è una di quelle cose sicuramente molto molto importanti, sulle quali siamo tornati a parlare negli anni anche con Michele, quando facevamo di tutto un podcast e intervistammo il professor Basosi, che era consulente dell'allora governo Prodi relativo proprio al nucleare, quando ancora facevamo veramente trasmissioni molto molto serie e non avevamo ovviamente la vergogna di andare a chiedere anche a personaggi di un certo rilievo se volevano essere intervistati. Dicevo l'orpello della democrazia perché appunto come sappiamo l'Italia si è espressa per ben due volte con due referendum, e molti hanno messo in discussione anche il senso del secondo referendum, però diciamo che il primo referendum fatto in Italia a favore o contro il nucleare era un referendum che faceva riferimento a una società diversa da quella nostra, insomma erano comunque gli anni 80, c'erano dei limiti, una anche incapacità magari della gente di comprendere, c'era una informazione più relativa e quindi ci si affidava molto più alla politica e a quello che magari la propria appartenenza politica suggeriva, quindi in questo caso magari chi era di centro di sinistra, allora c'era il Partito Comunista ancora, e chi era appunto di sinistra seguiva come la corrente insomma del pensiero del proprio partito, e chi era ovviamente dell'altra ala, insomma era la Democrazia Cristiana, sosteneva. Il problema è che in realtà sul nucleare non c'è mai stata una posizione così. Chi era contro il nucleare era molto contro il nucleare, chi era a favore del nucleare lo era timidamente. Diciamo quindi il primo referendum che fu fatto in Italia, pur essendo io d'accordo poi fondamentalmente, fu accompagnato verso un sì. Infatti l'Italia si espresse nettamente da questo punto di vista. E quindi ovviamente la scelta di smantellare le nostre centrali nucleari con tutto quello che poi comportava, perché comunque smantellare una centrale nucleare significa 20-25 anni se non 30 anni di lavoro, considerando che noi avevamo una centrale nucleare nel nord Italia che era super ultra mega moderna, e poi avevamo la centrale di Latina che pare che c'erano gli spifferi dentro, e quindi insomma è anche questo, no, un po' che ci fa considerare il fatto di aver fatto una scelta allora condivisibile e giusta. Ciao Walter, intanto buongiorno, scusa non ti avevo visto. E dopo qualche anno, quindi qualche anno fa, poi fondamentalmente è stato chiesto agli italiani di tornare un'altra volta sull'argomento, e sebbene in questo caso in maniera condivisibile, perché alla fine comunque è passato del tempo, la società è cambiata, le tecnologie sono cambiate, la mentalità del nostro paese è cambiata, tra virgolette, bisogna vedere se nel bene o nel male. Quindi si è chiesto agli italiani di esprimersi ulteriormente su questo tipo di argomento, e gli italiani si sono espressi nuovamente. E questo ovviamente, Walter, faccio fatica a leggerti, so da solo, quando so da solo è un po' complicato, dopo quando metto il brano ti leggo volentieri e poi magari ti rispondo dopo. E l'Italia si è riespressa da questo punto di vista, forse magari meno nettamente rispetto a quello che è stato nel passato, però si è espressa. Oggi si torna a parlare di nucleare a prescindere dai risultati elettorali dei referendari. A prescindere da questo si torna a parlare di nucleare, cioè con una certa disinvoltura, chi è d'accordo, chi apre, chi fa delle timide aperture rispetto a questo tipo di argomento, e sta cosa, ragazzi, sinceramente mi lascia veramente molto molto perplesso, perché allora è inutile, non chiedete la consultazione se già vi riapprocciate e discutete di questo, anche se comunque diciamo chi parla, chi interagisce con chi propone nuovamente il nucleare, insomma, poi la butta sul timido, diciamo così, dice vabbè, comunque ancora non ci sono le condizioni, no? Però questa è una, al di là di approfondire questo tipo di tema, per il quale ovviamente non volevo poi in realtà discutere, perché non era l'argomento principale che volevo trattare, ci tenevo però a parlare di questa cosa, perché veramente ieri mi ha colpito molto, perché avevo letto una cosa, poi due cose, poi le due cose diventano 5, 6, 8, e quindi insomma alla fine diventa un po' particolare come tipo di discorso, e alla fine è giunto il momento magari di riparlarne, quindi magari ne riparleremo in maniera accurata e approfondita prossimamente su questi schermi. Seeing dreams, oh, seeing dreams, oh, I don't know where I am going to, but I know when I do, it won't be you. Catch a train without a letterbox, catch the sun, I'll clean my wounds and kiss the rocks. Seeing dreams, oh, seeing dreams, oh. Just been found. I hear leaving in a wind. Allora, rientriamo prima di cambiare argomento. Naturalmente, vado a leggere il messaggio di Walter, che dice: io inconsciamente ho paura di rischi del nucleare, specie in Italia. Ma io penso che sia questo il vero problema, cioè nel senso che nel nostro paese, secondo me, si è votati sulla coscienza del senso di paura. E se da un punto di vista più allargato, più empirico, più logico e razionale, questa è una cosa che non dovrebbe avere senso, non dovrebbe esistere. È chiaro che comunque il nucleare, ma questo però in generale è l'uomo che produce e cerca di imbrigliare una quantità di energia assolutamente imponente, e chiaramente questa cosa fa paura, a prescindere dal fatto che sia fatto in Italia o non fatto in Italia. In Italia questa cosa fa ancora più paura, perché poi ci sono tutta una serie di meccanismi, che non parlo delle competenze degli scienziati, dei tecnici, che sicuramente saranno di primissimo ordine, ma è chiaro che il discorso poi dopo comincia a diventare politico, appunto, cioè nel senso, laddove comunque e qui infatti poi entriamo poi nel secondo argomento, ma entriamo nel secondo argomento, dove poi ovviamente entra anche questo discorso della politica, che tra l'altro crea ulteriori problemi. Comunque Walter continua dicendo che è vero anche che la tecnologia è avanzata e che l'autonomia energetica è strategica oggi, chiaramente. Oggi compriamo troppe risorse dall'estero e dipendiamo da mezzo mondo. Questo è parzialmente vero, anzi no, è assolutamente vero. Questa è una cosa, purtroppo in particolare in Italia, è una cosa che ha una rilevanza dal punto di vista proprio economico, politico e strategico, chiaramente. E poi vabbè, fa tutto un discorso sulle rinnovabili. Io devo dire la verità, che la tecnologia avanzi e che anche noi dobbiamo adeguarci a un certo tipo di nuova produzione, e il fatto che bisogna andare verso un'energia pulita è una cosa assodata, e secondo me l'Italia dovrebbe avere un ruolo di primo piano rispetto a questo tipo di cose. Però quello che stiamo vedendo in questi tempi, quindi scissione, fusione, insomma esperimenti alla fine che stanno portando il nostro rapporto con il nucleare ai massimi livelli di potenza, a me onestamente fa un po', insomma, un po' di preoccupazione, anche perché possiamo vedere anche esempi virtuosi. Ecco, io pensiamo al discorso del Giappone, che è un paese sismicamente problematico, con a volte terremoti veramente importanti, tsunami, e con una costellazione centrale nucleare, nonostante il territorio relativamente piccolo. E questo ovviamente inevitabilmente prima o poi porterà a un problema, no? Quindi il discorso delle energie è un discorso che va sviluppato, ma dovrebbe essere sviluppato con un'amplificazione della nostra capacità di produrre energia in maniera anche più naturale, per certi versi. Oddio, scusate. Poi dice giustamente Walter: peccato aver disperso tutto il nostro know-how dei fisici nucleari, che erano tra i migliori del mondo. Infatti abbiamo fatto la bomba atomica. vabbè, dai, comunque scherzando. Poi vedo che si è aperto un po' il discorso, come vi spiego, ragazzi, durante la trasmissione faccio fatica a leggermi, perché se parlo e leggo allo stesso tempo diventa un po' complicato. Quindi dopo, caro DJ Joker, ti leggo, perché lui dice: questa storia del nucleare non lo convince, potrebbe essere uno specchietto per le allodole. Dopo vado un attimo a capire un attimo che cosa intende. Intanto salutiamo anche Melanie, che ci ha raggiunto in chat. Il secondo argomento che volevo trattare, però alla fine poi la puntata come al solito va un po' per cazzi suoi, e torniamo al discorso della politica che decide al posto di. In questa è una fase un po' particolare, dove ancora non è stato chiarito in senso univoco dalla parte delle istituzioni che dovrebbero farlo, quindi Organizzazione Mondiale della Sanità ad esempio, se è necessario o meno una terza dose del vaccino anti-Covid. E questa è una cosa che tra l'altro un po', insomma, ci deve far riflettere, perché nel dibattito politico nazionale in questo momento sta nascendo questa convinzione, questa decisione, diciamo tra virgolette, di portare in fase esecutiva la terza dose del vaccino. Quindi questa è una decisione politica, non è più una decisione tecnica, non è più una decisione sanitaria o scientifica, è una decisione politica. Quindi è una decisione politica motivata probabilmente da esigenze economiche, da accordi, da tutto quello che è di solito dietro la politica. E questo è un problema, chiaramente. È un problema perché non soltanto a questo punto non capiamo se questa cosa della terza dose è necessaria o non è necessaria, ma in qualche maniera apriamo il fianco ad ulteriori scetticismi, ad ulteriori dubbi, a perdere il senso di fiducia nei confronti delle istituzioni che dovrebbero comunque gestire questa cosa, che dovrebbero comunque aiutarci a capire se questa terza dose va fatta, e invece ci troviamo di fronte appunto a una decisione politica. E a questo punto devo dire, io che sono un oltranzista del vaccinismo, devo dire, adesso comincio a pormi un po' delle domande. È giusto che lo faccia, sarebbe stupido non farlo, poi, no? Pur rimanendo coerente e convinto che sia giusto vaccinarsi, e anche dopo arriviamo anche al discorso dell'obbligo, ne parliamo fra poco. Questa cosa mi lascia veramente un po' perplesso. Ecco, magari esprimete anche le vostre considerazioni, perché poi dopo, alla fine, se io leggo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non ha ancora definito se è necessaria una terza dose, in una fase in cui i vaccini stanno uscendo dalla fase sperimentale, perché ricordiamocelo, insomma, forse l'unico vero cavallo di battaglia che hanno i Novax è che comunque questi vaccini che noi abbiamo assunto per combattere il problema del Covid erano vaccini d'emergenza, quindi ancora in fase di rodaggio, diciamo così, se non vogliamo dire direttamente sperimentali, no? E quindi trovarci adesso a vedere la politica impostare questo tipo di discorso verso la terza dose, poi terza dose quale? Terza dose cosa? Cioè, di chi? Perché? Quale siero? Per quale siero, per chi ha preso quale altro siero? Insomma, ragazzi, la cosa comincia a diventare un po' più fastidiosa rispetto al fatto di sapere, ad esempio, che il Covid, come sicuramente sarà, è un virus che sarà con noi per i prossimi 10-15 anni, e che al pari della vaccinazione per l'influenza ogni anno dovremo fare una vaccinazione relativa a quella che è il Covid. E io lo accetto come tipo di discorso quando questa cosa entra però ovviamente in uno stato di regime, quando abbiamo un siero più o meno unitario, più o meno funzionale e sicuramente fuori dalla fase sperimentale, cioè ufficiale, definito, dove la casa farmaceutica, lo Stato e tutti gli enti preposti si prendano la responsabilità di dire questo è un farmaco sicuro, a eccezione dei casi straordinari che possono essere anche, insomma, legati a chi si fa il vaccino influenzale. Cioè, è detto che alla fine quando assumi un farmaco in generale il rischio c'è sempre, che magari scopri di avere un'allergia che fino a poco prima ovviamente non sapevi di avere. E questo è, scusate un secondo, è bello fare la trasmissione con la tosse, o perlomeno ti viene la tosse perché stai facendo la trasmissione. Avrei dovuto bere più acqua prima di iniziare a parlare. E il dibattito politico in questo momento si sta scatenando sul discorso dell'obbligo vaccinale. Allora, io su questa cosa sono un po' più netto, un po' più rigoroso. Io comprendo, e l'ho sempre detto, i dubbi, comprendo le paure, soprattutto nella fase iniziale, quando ovviamente ci trovavamo tutti sballottati da un problema che ci ha stravolto le vite, e arriva qualcuno e dice dai comincia papà, ficcate sta siringa sul petto e via. Capisco il dubbio, capisco la paura in particolare, comunque verso un qualcosa di ignoto, di diverso, di poco comprensibile, il fatto che comunque a livello istituzionale non si sia mai fatta una chiarezza unitaria da questo punto di vista, non sia stata ben informata la gente, non ci sia stata una campagna informativa anche accompagnare le persone verso questa procedura. Ho parlato durante questa settimana con una ragazza che lavora al centro vaccinale e ci ha raccontato di cose assurde che succedono nei centri vaccinali, gente che viene lì e dice io sono qui perché mi hanno obbligato, o che magari va lì per firmare che non acconsentono a fare il vaccino. Sei un coglione, cioè nel senso non ci andare, per fai perdere tempo alla gente, fai perdere fogli di carta che so alberi che abbattiamo e via dicendo. Quindi ecco, diciamo, io su questa cosa, io vengo da una generazione che ha scavalcato il morbillo, come abbiamo detto, così come abbiamo scavalcato tantissime altre malattie. Noi siamo cresciuti con i vaccini obbligatori, cioè non siamo con i vaccini quelli facoltativi. Poi è vero che negli anni 70 e 80 è cominciata sta storia che i vaccini facevano venire l'autismo ai bambini, vabbè, no? Nel senso, soprassediamo anche un po' a questa questione. Sono appunto cresciuto in una generazione che aveva il vaccino obbligatorio, io ho ancora il segno del vaiolo, era una cosa che tu dovevi fare. Poi dopo i ragazzi che sono nati uno o due anni dopo di me hanno avuto la possibilità di scegliere, quindi era diventato facoltativo, fino a che ovviamente è stato completamente abolito, dato che il vaiolo è stato completamente deviralizzato dalla faccia della terra. Però ecco, queste sono cose che ci sta che attengano alla decisione della politica, delle istituzioni. E vedere questa contrapposizione della destra Novax, che adesso la destra per acchiappa voti acchiapperebbe qualsiasi tipo di opinione senza indiscriminatamente, senza fare troppa cernita, no? Quindi sul populismo, sulle scelte di pancia, no? Questa decisione, capito, del no, la libertà di scelta. Ma la libertà di scelta ha un limite all'interno di una comunità democratica. La libertà di scelta finisce laddove iniziano i problemi per gli altri, e questo è un assunto universale, cioè non è una cosa opinabile, è un dato di fatto, è così. Se tu vuoi essere un Novax, non vuoi vaccinarti, non vuoi fare i tamponi, non vuoi medicarti, non vuoi, devi avere la tua condizione di essere indipendente all'esterno della comunità. Se tu sei all'interno di una comunità, devi aderire a quelle che sono le decisioni per la salvaguardia e la sicurezza sanitaria della comunità. E su questo, ragazzi, non si può discutere. Cioè, io posso comprendere e continuo a comprendere che ci debba essere chiarezza, che ci debba essere una rassicurazione, che uno Stato viene lì e ti dice tu lo devi fare il vaccino per il bene di tutti, ma io ti garantisco al 100% o al 99,99% che questo siero è sicuro e che a te non ti succederà niente al di fuori di quello che è necessario che ti succeda. Tutto qua. Secluded corner in the terminal quay where the strangers go and the native stay. She sings, come on, break the rain. And even some might stop and have her explain if they knew she doesn't need to entertain. When she sings, come on, break the rain. I'm saying, hey, come along. bus as they're passing me, but her back's pressed hard against the sea and she sings, come on, break the rain. Figuring a way to finally get it done. Imagine what if she ever really got into one, but she sings, come on, break the rain. Say, sono carine queste canzoncelle, ti aprono un po' il cuore così, sono queste cose un po' romantiche, queste, queste sonorità così delicate da, da titoli di coda, no? Di un film così carino, magari un film d'amore, che cazzo ne so, insomma, no? Ma che cazzo ce ne frega, buongiorno un cazzo a tutti ragazzi, prima di tutto, mi sa che il tema della puntata non lo tratto, lo tratterò la prossima volta, perché a questo punto vedo che... è interessante questi, questi temi che abbiamo buttato lì a The Gatsum. Parlo allora di DJ Hooker, dice giustamente che è uno specchietto degli allodole, cioè lui sostiene che non c'ha nessun senso adesso proporre anche politicamente un ritorno al nucleare, quindi torniamo al, al discorso di prima, soprattutto perché chiaramente la popolazione si è già più volte espressa, no, rispetto a questo tipo di considerazione, cioè anche politicamente in realtà oggettivamente non ha senso, però come giustamente dice anche Walter, sì, però devi considerare che se a un certo punto le nazioni che ci forniscono maggiore energia per un'interruzione dei rapporti o qualsiasi cosa, considerate che noi in questo momento siamo nel più lungo periodo di pace che conosce la nostra società, non parlo al mondo, perché il mondo non ha mai conosciuto la pace, ci sono guerre costantemente ogni giorno e in ogni angolo, però appunto, alla fine, scusate, regolo i volumi, sto capendo un cazzo, però è chiaro che l'indipendenza energetica è una questione non soltanto economica, che comunque permette praticamente alla nostra nazione di produrre energia e venderla all'interno del proprio territorio e magari anche extra nostro territorio, quindi magari alle nazioni che ne hanno bisogno, così come la Francia fa con noi, è un discorso, oltre a essere una questione strategica, cioè comunque il fatto che in caso di emergenza noi siamo indipendenti. Ricordiamoci quella famosa notte bianca a Roma, no? Cioè nel senso quella notte in cui ci fu il blackout nazionale globale, no? Che non si era mai capito, poi vabbè, in realtà ci sono sicuramente altre motivazioni. Questa è una cosa veramente da tenere in considerazione, cioè nel senso comunque l'Italia da questo punto di vista deve comunque prima o poi organizzarsi, insomma, questa è una cosa che va, diciamo, non possiamo escludere nella nostra valutazione. Io continuo a restare, però ovviamente la mia opinione, poi questa è la mia opinione e la esprimo liberamente come... intanto il gatto si lamenta, non so per quale ragione. Tornando invece al discorso della terza dose, Francesco ci dice che EMA e Organizzazione Mondiale della Sanità hanno dichiarato un bel no per quanto riguarda il discorso della terza dose e, ancora più importante, di dare priorità a quelle che sono le nazioni che sono ancora indietro da questo punto di vista, e ce ne sono chiaramente, perché noi questa cosa del Covid ha un po' spezzato il mondo in due, no? In qualche maniera, cioè noi pensiamo che alla fine tutte quelle realtà al di fuori dei nostri muri di sicurezza non esistano più, cioè è stato un po' un corriamo tutti ai ripari e non guardiamo fuori dalla finestra, però fuori dalla finestra c'è un mondo con il quale comunque dovremmo piano piano tornare a interagire, perché ricordiamoci che ovviamente le pandemie, questa pandemia, ma così come tutte le altre pandemie che arriveranno, perché prima o poi arriveranno, sono il frutto di una esigenza legata alla globalizzazione, al movimento delle merci, al movimento delle persone, a tutta quella quell'interscambio politico, economico e culturale che è in continua evoluzione da questo punto di vista. Chiaro che il Covid ha stoppato, tra virgolette, poi anche molto relativamente, questo tipo di situazione, ma una situazione che si riverificherà. E ritorniamo un po' a quello che dicemmo anche l'altro anno, il fatto che è assurdo, infatti non è vero, che le nazioni si sono fatte trovare impreparate di fronte a un piano pandemico quando i piani pandemici esistono, cioè, quindi è un po' una cosa sempre da valutare. Francesco poi dice che è negli anni 90 che è nato il novaxismo. Sì, no, cioè nel senso sì, ma in realtà si è amplificato, diciamo che è diventato fenomeno, ma il novaxismo, così come tutti i complottismi a partire dalle scie chimiche, hanno comunque una radice più vecchia, in particolare gli anni 70 e 80, con tutti quei fenomeni di repulsione, diciamo, di ribellione, di rifiuto, diciamo, insomma. Quindi da questo punto di vista, alla fine poi vedo che state continuando a postare cose molto molto interessanti. Paziente zero, bla bla bla, Resident Evil più tardi ascolti, grazie. Sì, grazie a te intanto, Walter, di aver partecipato. Io direi ascolta anche tu, che spiega un po' di cose sulla terza dose. Lo farò, però non adesso, ovviamente. Ciao Michela è tornata adesso dallo scagazzamento canile, come giusto che sia, anzi c'è pure un aggiunto, diciamo così. Bene ragazzi, io a questo punto alle 7:40 faccio fatica un po' a parlare di quello che sarebbe dovuto essere l'argomento della giornata, perché chiaramente insomma ci siamo lasciati andare in tante discussioni, e questo mi piace, perché in realtà poi è il senso di questo programma, perché Buongiorno un cazzo è miro del culo e vengo qui e faccio delle dissertazioni. Avevo questi primi tre temi che dovevano essere semplicemente introduttivi, una cosa semplice, poi in realtà invece ci siamo soffermati, e questo mi è piaciuto molto. Mi piace questa idea del fatto che io voglio parlare di questo, però parlerò anche di questo, poi se questa cosa prende, diciamo, il sopravvento, pazienza, insomma il programma diventa un'altra cosa, e dell'argomento principale ne parlerò, anche perché poi l'argomento principale in realtà era per farsi due risate, era un po' una stronzatina che mi era venuta in mente, e che era relativa alle liste elettorali per Roma Capitale e i candidati. C'era insomma da discutere su questa cosa, perché alla fine comunque il pagliaccismo insomma torna sempre in auge per qualche motivo. Sono arrivata solo ora, scusa, va bene, ti perdoneremo. Parlavi del podcast suggerito da Lobby, sì, poi dopo lo rilinkiamo, magari lo twittiamo anche. Tra l'altro stamattina ho dimenticato di fare il tweet della live, vabbè, caro Twitter di Runtime, sarebbe bello che tu diventassi indipendente e automatizzato, ma a questo poi ci penseremo, come sempre. Insomma, d'altronde nel fondo sono soltanto 4-5 anni che esiste Runtime Radio, con calma ragazzi, con calma, e 11 anni che esistono poi tutti gli altri podcast. Bene ragazzi, allora io vi ringrazio, è stata una puntata interessante, grazie della partecipazione, grazie dei vari contributi e della discussione che si è creata. Vi chiedo ancora scusa sul fatto che purtroppo alla fine io devo mettere dei brani per andare un attimo a recuperare quello che avete scritto, perché non ho assolutamente le capacità neurologiche, insomma, di poter parlare e leggere quello che state dicendo. Detto questo, io ringrazio Walter Sbano, DJ Joker, Francesco, Melanie, Michela e tutti coloro che magari hanno ascoltato e che non hanno partecipato direttamente alla chat. Spero che questa puntata e questa conversazione vi sia tornata utile in qualche maniera e ci vediamo ovviamente alla prossima puntata, che è martedì prossimo, mentre giovedì vi ricordo che c'è Disorganizzati Informati con Michela, di cui parlerà sicuramente di qualche tema importante, ma ora Michela non è qui in studio, se no gli avrei fatto lanciare, gli avrei dato il gancio per parlare, per dirci di che cosa parlava la prossima puntata, però insomma lo vedo che non emerge, perché non solo è arrivata tardi ma non sta continuando ad ascoltare, quindi vabbè, chi se ne frega. Insomma, martedì, giovedì prossimo vi ricordo alle 7 Disorganizzati Informati con Michela De Paola, e domani ovviamente torneremo a parlare anche di Leo Varghion con Il Mattino Allora in Podcast. Ciao a tutti.